Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera facciamo un focus sul Veneto dal punto di vista economico, sul nord-est, una realtà che è stata la ribalta, che è ancora la ribalta come uno degli elementi portanti dell'economia italiana, e lo facciamo attraverso un libro di Simone Filippetti. Buonasera Filippetti. Buonasera a voi, grazie. Simone Filippetti è giornalista del Sole 24 Ore e ha scritto Serenissimi Affari, i Veneti in borsa tra splendore e declino, ed è la storia di delle grandi aziende venete. Di grandi aziende venete ce ne sono molte, da Marzotto a Benetton, da Safilo a Luxottica, poi magari le vediamo. Ecco, grandi aziende venete che hanno avuto appunto splendore e declino, qualcuna è riuscita a riemergere, ad affrontare positivamente la crisi, qualcun'altra ha avuto problemi, ha dovuto essere ceduta, ma è una realtà che resta comunque una realtà molto interessante, molto importante anche in un'ottica nazionale. Com'è nata l'idea di questo libro, Simone Filippetti? Ma è nata dalla proposta dell'editore Marsilio di Venezia di fare un focus appunto sulle aziende venete quotate in borsa, per questo il libro è così, diciamo, agile, altrimenti avrei dovuto scrivere un'enciclopedia. È un'idea che ho trovato subito interessante perché, come tu giustamente notavi, il Veneto è e rimane, come dire, a torto, a ragione, la locomotiva un po' d'Italia economica, una sorta di laboratorio dove le cose nascono prima e avvengono prima. E quindi andare a studiare quello che è successo in questi ultimi anni è, secondo me, come dire, una radiografia che detta anche un po' le linee del futuro, di quello che potrà succedere. Negli anni 90 il Veneto, con le sue PMI, i famosi distretti, di fatto ha tirato fuori il paese da Tangentopoli, da tanti problemi che abbiamo avuto nei primi anni 90, quindi gettando poi semi per un boom economico. Ora quell'ondata si è andata affievolendo e siamo in una fase di crisi e recessione, e questo libro tenta di spiegare, o perlomeno pone degli interrogativi per capire: sarà il Veneto in grado di fare di nuovo da seconda locomotiva per il paese? Di essere una nuova Silicon Valley, come conclude il libro. Ma sì, io andrei all'inizio. All'inizio, ovviamente, tutte queste imprese di cui si parla sono state delle piccole imprese. Alcune sono nate anche negli ultimi 40-50 anni. Benetton, come Aprilia, sono aziende abbastanza recenti che hanno avuto una grande parabola. Altre hanno una storia un po' più lunga, come Marzotto, indubbiamente. Però alla base c'è una volontà, una passione imprenditoriale, una capacità di queste persone di affrontare e di vincere nuove sfide. Forse questo che possiamo dire è l'elemento originante, il fatto di un nord-est che è passato in pochi anni da essere un territorio di emigrazione nel dopoguerra a un territorio di forte attrattività per le imprese industriali. C'è questa passione imprenditoriale al fondo, Filippetti. Sì, assolutamente, diciamo che è un filo rosso, se vuoi, dire il DNA che in qualche modo accomuna queste storie, siano esse di successo o di, come dire, insuccesso o successo parziale, è questa sorta, come dire, di creatività, se vuoi, questa capacità innovativa degli imprenditori veneti. Ci sono alcune storie molto interessanti, ad esempio è molto bella la storia dell'imprenditore di Nice, questa azienda che fa automazione per la casa, di altissimo design, un ragazzo che già a 25 anni aveva la sua prima azienda e a 30 fondò quella che poi è l'azienda attuale, che poi andrà in borsa. Quindi c'è, come dire, alla base una sorta di fermento, una specie di come potremmo chiamarlo, di humus imprenditoriale / creativo / innovativo, che è un po' il tratto comune di questi imprenditori. Ecco, che poi però alcuni imprenditori non hanno saputo interpretare in tempo i cambiamenti di mercato. Vediamo Benetton, che si è fatto superare da altre imprese nate anche dopo, come imprese spagnole, per sì, esempio. Vediamo Aprilia, che ha dovuto cedere le armi, passare di mano ad un grande gruppo come Piaggio, altre imprese che non hanno saputo trasformarsi. Come mai è avvenuta questa incapacità di seguire i tempi? Forse hanno dormito un po' sugli allori, possiamo dirlo. Beh sì, questa è una reazione, se vuoi, anche abbastanza normale, una volta che hai raggiunto, come dire, l'apice, la cima, rallentare un po'. Più che forse l'incapacità di cogliere gli eventi è che a un certo punto molte aziende necessitano di fare un passo in più. È forse mancato quel quel passaggio successivo che spesso consiste nel diventare poi un'azienda manageriale. L'azienda di famiglia spesso funziona fino a una certa dimensione. Quando poi diventi molto grande non puoi pensare di gestire la tua azienda come quando era una bottega sotto casa dalla quale sei partito. E quindi forse il peccato, se si vuole, originale di questi imprenditori che sono arrivati al bivio di non aver voluto in qualche modo andare, come dire, fare il passo successivo, far diventare l'azienda una grande azienda, facendo un passo indietro come imprenditori, però così garantendo magari un futuro. Ecco, c'è un altro elemento che mette in luce Paolo Madron nella sua prefazione, il fatto che questi imprenditori non sanno fare squadra, molto spesso si sono trovati su fronti contrapposti quando si sono stati a fare delle scelte anche all'interno di Confindustria, per esempio, si sono trovati su posizioni diverse, non hanno saputo appoggiarsi l'uno all'altro quando si trattava di trovare il modo di superare i problemi. Questo individualismo è anche forse una caratteristica del nord-est, del Veneto? Assolutamente, direi che, come dire, alla creatività e a quelle, come dire, capacità innovativa a cui facciamo riferimento prima, fa da contraltare, come dire, quasi un po' da contrappasso dantesco, se vuoi, un alto tasso di litigiosità. Non a caso il libro si apre con le baruffe chiozzotte, ricordando la famosa commedia di Goldoni, insomma, certo. Perché i veneti, diciamo che sono noti anche per, come dire, per un carattere abbastanza irascibile e non sempre facile. Questo è stato molto evidente in alcuni casi di cui parliamo nel libro, come ad esempio la famiglia Marzotto, che forse è l'emblema più, come dire, quasi un po' un caso archetipo. Dynasty, poi, questa è veramente una, di cui si intrecciano elementi personali, elementi aziendali, parentele, matrimoni. Sì, decine di nipoti che si lotta fra di loro, invidie, gelosie, quindi questo sicuramente è un altro tratto che in alcuni casi è anche positivo, perché, come dire, perché genera quella, come dire, distruzione creatrice, no? Come amano dire i teorici del capitalismo, perché dà anche una spinta. In alcuni casi però rischia di essere poi negativa, perché chiaramente troppe lotte interne poi chiaramente non giovano mai a nessuna azienda. Tanto poi anche per alcune aziende a perdere quel poco di identità veneta che potevano avere, ma un'azienda come Benetton ha interessi globali, ma soprattutto italiani al di fuori della realtà veneta, come con Autogrill, come con Aeroporti di Roma, quindi sono andati a cercare altri orizzonti rispetto al loro dato originario. Ma in questa prospettiva possiamo dire che queste aziende hanno saputo in qualche modo anche contaminare positivamente il territorio, cioè le piccole e medie aziende che sono sorte hanno avuto una maggiore facilità per la presenza di queste grandi aziende o no, Filippetti? No, direi di sì, in primis come banalmente, come anche solo come indotto ovviamente, tutto, come dire, attorno a queste grandi aziende poi sorgono una sorta di fornitori e altre piccole aziende che fanno dei piccoli pezzi del prodotto finale. Basti pensare a Longarone, dove c'è quella nostra sorta di distretto dell'occhialeria, certo. E lì contiamo circa, adesso vado a memoria, ma parliamo di 900 aziende che gravitano attorno a Safilo, Marcolin, Luxottica come fornitori dell'industria chimica. Quindi stiamo parlando chiaramente che un'azienda di successo vuol dire dà una spinta economica sul territorio di molto forte, quindi questo è senz'altro un dato di fatto. Ecco, quest'ultimo capitolo, la Silicon Valley in Saor, cioè la Silicon Valley in salsa veneziana, in salsa veneta, è una realtà comunque. Sì, allora, come dire, anche con i suoi limiti bisogna riconoscere che, paradossalmente a quello che si possa pensare, se c'è un distretto dove in Italia si fa veramente innovazione high tech è la zona del Triveneto, anzi forse più Friuli che addirittura Veneto, quindi all'estremità orientale del nostro paese. Forse non sarà un caso che sono due aziende molto interessanti nell'ambito triestino, e forse non sarà un caso perché Trieste era l'antico porto dell'impero austro-ungarico, quindi un retaggio culturale anche di apertura mentale. Beh, c'è anche un centro di ricerca molto forte a Trieste, l'area di ricerca, un distretto anche accademico dove la ricerca è qualcosa di fortemente sostenuto anche con i fondi pubblici. Per assolutamente, infatti queste aziende di cui si parla sono nate entrambe da questo parco, insomma questa sorta di venture capital italiana, di questi parchi accademici scientifici che hanno inizialmente finanziato queste imprese. In entrambi i casi le aziende sono la Eurotech e la TBS, sono nate dietro l'impulso della finanziaria regionale Friulia, che ha per prima finanziato queste imprese. È un piccolo addentellato, è forse uno dei pochi casi in cui pubblico e privato funzionano, dove il pubblico finanzia un'impresa privata che fa innovazione e finanzia non solo con i soldi, ma anche offrendo le strutture di base per la ricerca, per avere la capacità appunto di affrontare con soluzioni nuove i problemi nuovi. Ecco, per concludere, dando un'occhiata alla realtà economica complessiva del Veneto, certamente ci sono luci e ombre, splendori e declino, come dice nel libro, ma possiamo avere qualche segnale di ripresa sia nelle imprese tradizionali sia in queste nuove imprese? Ma direi in parte sì, perché abbiamo alcuni esempi come Luxotti che l'ha citata, ma anche l'autogrill di cui tu hai fatto una menzione, o anche la stessa Safilo. Stiamo parlando di realtà che non sono più aziende locali, ma delle vere e proprie multinazionali. E quando tu hai una multinazionale su un territorio, gioco forza che una ricaduta positiva in qualche modo, finché queste aziende rimangono in Italia avremo comunque dei benefici. E quindi possiamo sperare che ci siano anche nuovi imprenditori che nascano e che anche grazie alle facilità di una tecnologia che è in fondo a basso costo possono affrontare questa nuova realtà e possono offrire delle speranze anche ai giovani. Assolutamente sì, perché molte di queste imprese sono nate da piccoli fornitori o clienti di grandi aziende che poi sono messi in proprio. Quindi diciamo questo è stato il modello virtuoso del Veneto. Quindi guardiamo alla storia industriale, alla storia dei grandi gruppi economici, una storia che viene raccontata con molti particolari in questo libro di Simone Filippetti. Guardiamola, ecco, guardando anche ai problemi che queste grandi aziende hanno affrontato, alcune positivamente, altre lasciandoci, lasciatemi dire, anche un po' le penne, ma comunque la situazione attuale è una situazione in cui in un grande dinamismo si può pensare di guardare con ottimismo, in fondo, o almeno con fiducia, al futuro. Grazie a Simone Filippetti. Grazie a voi. Ricordo, autore del libro Serenissimi Affari, Veneti in Borsa tra Splendore e Declino. L'editore è Marsilio, un editore che, come diceva Filippetti, ha avuto anche un ruolo propulsivo importante per far realizzare a Filippetti questo primo libro, primo di una serie di libri che sicuramente seguiranno. Così speriamo. Editore Marsilio, sono 128 pagine per 10 euro. Ringrazio anche Luca Cremonese in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon weekend a tutti.